amante senza il cuore, con poco tempo, ma non è, non è per noi. Camicie quante fatti tuoi, non è per noi. E se non vuole lo vorrà, e quanta gioia mi darà. Riammi in fretta i sogni tuoi, pistola e banca dietro noi. Un'auto da corsa che sparato a centro dentro te, ed una fuga che ha apparenza di eternità. Il deserto tra noi è un Sahara dei tuoi, un mare di guai tra noi. E sei scappata via e mi rimane cosa, una finestra buia che un universo rosa. E sei fuggita così, lasciando indietro poco, mettendo avanti un sogno bruciato poi nel fuoco. Se non vuole lo vorrà, e quanta gioia mi darà. E riempi in fretta i sogni tuoi, pistola e banca dietro noi. Un'auto da corsa che sparato a cento dentro te, ed una fuga che ha l'apparenza di eternità.